aprite il cancello che fuori c'è una dei due. Sì? Provi a portare la scelta nell'ottanta. Ferrari, se alle 8:15 c'è qualcuno in ufficio? Non so, domani c'è macchina, devono scendere, magari glielo chiedi dopo. Pirlo, Balotelli, Dida, Ferrari vi ha chiesto cosa... Ok, Balotelli, Dida, domani mattina potete passare a ritirare l'appunto aziendale, il piano al primo piano? Dai, a questo punto devi chiedere al piano. C'è nessuno? Chi è? Buongiorno. Buongiorno, sono io. Sono a Begadietta. E cosa ci fai tu, brutto maniaco? A farmi un giro. Sto andando dai cinesi. E con chi sei? Con Giovanna. Auguri. Grazie, caro. Sta andando di là a comprarti quell'antenna. Sì, ci sono altri 100 euro, quindi adesso mi piglio quell'antenna e vediamo. E il resto? L'importante è comprati un po' di roba da vestire. Sì, sì. Ma sei già arrivato? Sei già arrivato? C'è nessuno? Ora. C'è nessuno? Attento, chef. Chi è? Io, buongiorno. Buongiorno. Sono qua, da Auchan, nel parcheggio qua. E cosa stai combinando? Nulla, devo andare, ero qui fra poco. Sto usando la magnetica, come sto uscendo? Meglio, in macchina. Stai uscendo bene. Già va bene. Una super offerta anche. Molto? Sì, funziona bene. Hai fatto bene. E ce la diamo in piazzata, con la magnetica. Sono qui nei parcheggi di Città Mercato, quelli di fronte a Vene Prolottore. Già va bene, ci sente abbastanza bene, Antonio. Fondo scala, so. Eh? E sono fondo scala. Sì. Ti stai comprando la roba da mangiare? Sì, fra lo spissi, gli ultimi 50 euro. Gli ultimi 50 della carta? Sì, gli ultimi che mi sono rimasti. Dopodiché non c'ho più niente. E cosa vuoi di più? Un lucano. Un tucano. Un tucano, sì. La mazza. È malata, Giuseppe. Sì. C'è qualcuno sotto che vuole entrare? Il parito. Sì. Chi è che vuole entrare? Avanti. Sono già lì, dai. Cos'è che ha detto? Chi è là? Un boia? Buia. Di Conchere. Avvicina la bocca al microfono. Ho capito, sei comprato? Ho letto, sei Giovanna, è dentro Città Mercato. No, è fuori dalla macchina. Va bene. Se parli lontano dal microfono non ti capisco, lo sai. Vabbè dai, che devo uscire, dai, ci sentiamo dopo. Eia, d'accordo. Miau. Un tonno. Oh, rispondi. Arrivederci. C'è nessuno? Ora. Ora. Dimmi tutto, caro. Dove sei? Sempre qui nel piazzale di Città Mercato. E io sono qua alla Bretella, dai. Dove c'è la chiesa di Don Gavino. Ah, ho capito. Cosa in chiesa sei andato? No, mia mamma è andata in chiesa, io sono qua in macchina. Se avete tempo io sono qua. Sì, devo andare allo spiglio, figurati. Vabbè, dai. Tu sei sempre lì aspettando tua madre. Già ti passa più già. Io sono qua, sto aspettando a lei. Va bene, meglio così. Passa chiuso. Passa il vostro, diceva quello. Ho preso l'antenna, quella per cosa? Per il wifi. Wifi? Sì, l'antenna per il wifi di casa ho comprato, la direttiva. La situazione la provo vicino a da Giampiero, la provo, vediamo se funziona. Va bene. Se funziona 38 VB, già voglia già mi basta, ragazzi. Poi cominciare, come si chiama, dell'hotel. Stasera, che me lo danno. E quindi mi aggancio all'hotel Carlo Felice. Almeno c'è la roba gratis. Va bene, va bene. Tu sì che mi cambi i nervi. Davvero che tu me ne cambi i nervi? E allora, tu sì che mi cambi il nervo, diceva quello. Tu sia poco. Ok, adesso sto andando dietro spine. Ma dove, giù la Pradanieta oppure quelle delle Polo Torres? No, mi conviene più quelle delle Polo Torres, mi conviene. È molto meglio. Va bene, va bene. A me non ti trovi bene. Mi serve qualcosa, la Pradanieta. Mi serve solo il pane del coso, mi serve. E basta. E qualche pacco di carne. E qualche cazzata mi serve, perché altro mi serve altro. Sono qua io sono qua. Vabbè, buona spesa. Sì, io ci siamo fra poco, sarà. Vabbè, a dopo. Sì, io ok. Chi è? Il boia. Chi è là? Il boia. Ah? Il boia. Ah, tu sei Giuseppe, ecco perché ti sentivo tutto strano. No. Il boia. Io sono il boia. Vi do la benedizione a tutti. Ma avvicinati al microfono. Non capisco, la fanculo. Ho detto che sono il boia. Vi do la benedizione a tutti. Ecco, tocca il cordone, ti do la benedizione, naso. Naso? Ah, vaso, mica vuoi su naso, senso persuaso, la vuoi che vada dentro un vaso. Botte c'è tutto. Ma sento una ombra? Non so vedo poca niente, ok. Coccolo. Cosa sento, una ombra? Che ti sento male? E parcheggio allo spedì di cosa so? Di Pradanieta. Cazzo, non c'è un posto qua. Ma con buco, cazzo. Ah, ero spinto di Pradanieta. Ehi, vado via del produttore, cazzo. Non c'è manco un buco. Ma non la boh, sembra che vada a basso, sembra, cazzo. A volte, sai com'è Antonello. Ehi, vado via del produttore, se faccio prima. Non sto a smentire almeno. Cazzo, non c'è buco di infilare una macchina. Ma non la boh, ragazzi. Vabbè che periodo che stanno tirando tutti. Tutto a un euro, per quello La gente sa che è a risparmio, tutto a un euro, dunque la gente adesso ne approfitta perché vogliono spendere molti soldi. Una volta mi compro un pacco di cose, di vibratori a un euro. Comprati un pacco di salciccione, ma lungo. Ce l'ho quello, domani lo apro. Ti prendi un pacco di salciccione, Antonè. Ho detto che lo apro domani, ce l'ho già. L'ho già comprato. Ah, già comprato, dai. No, pensavo che fosse... Prendi uno e paghi uno. No, se mai prendi due e paghi uno. Magari. Vabbè, c'è molta cosa, un euro, hai capito. Giusto per fare spendere un po' la gente. Sono vicino a città mercato. Vi do la benedizione! Antonetto. Ma ti mando un calatrezzi, appigliatemi. Cosa ti manca a te? È passato il calatrezzi dell'acce, bello amico, simile a quello americano. Abbassa la leva, aggancia da sotto e ti si busta la macchina. Quella che c'ha... coso, Tangiano. Sì, bello mega. Tu guarda quello che ci sono negli Stati Uniti, per cosa si vede le macchine, poi si agganciano di nascosto e si portano, sollevano appena e si portano via la macchina. E occhio a voi che non vi portano via la macchina a voi, me. Sono qui per le prototipi adesso io. E per quello che sei forte. Bianco, sono quasi arrivato. Ma è arrivato, sì. Sono arrivato, sì. Sono arrivato. Ci stiamo dopo, là. E potete entrare e uscire. Vabbè, dai. Vabbè, io devo andare dopo, devo andare all'avvocato, là. Cosa, Giuseppe? Ho detto che dopo devo andare dall'avvocato. Ah, va bene. Ammazza la tua moglie? No, no, è per la questione di mia madre. Ah, ho capito. Se riusciamo a buttarci fuori a quei pezzi di merda. Non ti stavo seguendo, Giuseppe, non ho capito, dimmi. Che mi sono trovato un buco inchiodato. Ho detto, dobbiamo fare di tutto per buttarci fuori quelle persone là che sono in campagna, capito? Ecco perché stiamo andando dall'avvocato e anche per il fatto di quella storia del fallimento. Va bene, allora, ci sentiamo tra un po'. Sono arrivato, sto cercando parcheggio, sta bene. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Oh, ci sei? Chi è? Sono il nipote di Antonello. Ciao. Ciao. Ma chi sei? Daniele? No, quello medio, Mirko. Mirko. Ciao, Giuseppe sono. Ciao. Adesso sei in macchina? Sì. Sei Antonello? No, Antonello e mamma sono andati a fare la spesa. Capito? Bene. Tu che fai di bello? Niente, sono qua, fermo. Noi guarda lo stesso. Vabbè. Aspetta, adesso aspettate Antonello che esce poi dalla Reospin e vi regala qualcosa. Sta mazza ci regala. Ascolta, ma cioè tu non sai da quanto sto aspettando un gioco che finalmente oggi è arrivato. Cioè ti giuro, sono stracontento. Ma la cosa più bella è che forse oggi, cioè proprio oggi, ci posso giocare appena ho finito i compiti, ovviamente. Prima il dovere e poi il piacere. Beh, è così. Prima il dovere e poi il piacere. E poi c'è anche la merendina, la merenda. E domani che facevo la merenda a casa Testoni. Non le fai merenda? Mai, vabbè, qualche volta, ma insomma è in comune proprio quello quando mangiamo. Ah, in comune? Ti passo a Daniele, ok? Vabbè. Ciao! Ciao Daniele! Come stai? Bene! Bene! Ma mi hai riconosciuto chi sono io, sì! E tu sei più bello! Chi sono io? Giuseppe! Bravo! Io sono... Una mattina! Quello che ti prendeva sempre in braccio. No. Come no? Beh, perché non parli più? Parla tu. Dimmi. Freddo ce n'è? Un tantino. Pochettino? No, perché in pratica mamma e zio e Mirko Mirko è come in macchina e poi mamma e zio sono usciti a fare la spesa. Va bene, già va bene. Adesso ti canto una canzone, va bene? Va bene, cantami la canzone. E sono cagato le maccheroni. Non ho capito. Allora, adesso te ne canto un'altra. Cantamela. Aspetta. E io sono qua io. Allora. Avanti. Indietro. Di fianco. Contromarcia. Come? Di fianco. Allora. 60 minuti. Ah, ok. E questa canzone me la canti sì o no? Sì. Adesso te la canto. E canta, va là. Allora, c'era un giorno questa bambina che andò in un parco. E poi? Poi sono arrivato io. Ed è successo che è arrivata una macchina e poi tutti quanti furono al cimitero. E poi? Ehi, ci sei? Io ci sono, tu non ci sei? Poi Giuseppe, sono ritornato. Ehi, ah, sono qua. I miei nipoti Fassi lo avevo dato. Ah, no, no, sono abbastanza tranquilli. E meno male. Va bene. Ti devo dire un... Adesso ti passo a mio nipote. Vabbè. Devo dirti un segreto. Capito? Oh, devo dirti una cosa. Dimmi. Quello con chi stavi parlando finora ero sempre io. Lo so, me l'ho immaginato. Cosa? Che me lo sono immaginato che eri sempre tu. Luca! Attento, Lucrezia! Oh, c'è Gio Marì! Beh, cos'è che stai combinando? Sono qua, facendo la spesa dello spino in Viale Porto Torres. Non ho capito! Ho fatto la spesa in Viale Porto Torres. Ah, guarda Porto Torres, sì. Con chi sei? Giovanna, mia sorella. Ah, ti perdete di là, sì, dirò. Non ho capito. Stai spendendo i soldi. Eia, sto spendendo i soldi. Gli ultimi che mi sono rimasti. Eia, tutti i gatti, non li prendili tutti, la sai a che cosa domani. Se sono ancora vivo non lo so io, cosa ne so io. Magari me li bevo stanotte. Eia, che bisogna... Però disilusizio che arriva domani, arrivano i cavalli. È vero, Allora bisogna mangiarli tutti oggi. Capito. Eia, per carità, dai, dove sei diretto? A casa, sono in Viale Porto Torres adesso, vicino alla mia campagna. Bene, mi ascolti, sono con l'antenna esterna. Io ti sento bene, in campagna tua eri? No, non sono in campagna mia, sto passando davanti a campagna, sono in Viale Porto Torres. Ah, credevo, perché non si può passare in su, qua vai, in campagna tua. Un di sera mai puoi passare, ma da te, campagna tua, no? Sì, già è un giorno non ci sento in campagna, sarà almeno 3 anni. Per carità, non la mettere meno pulita con la campagna, un peccato, cara. Lo so, perché quando ho soldi, prendo, come si chiama, non dice spogliatore, la lato, ho capito. Solo prendo la ruspa, faccio prima, e faccio pulizia. Ehi, papurina, metti un fiammifero e si bruci tutto e si pulisce da sola. Allora, con la ruspa stai tranquillo, una passata di ruspa non c'è più erba in 5 minuti. Per carità, è un peccato veramente. Manca la cosa principale, allora bisogna avere pazienza. Allora, già, facciamo un po'. Eia, vabbè, va. Ci sentiamo più tardi a Torino, dai, ciao, buon proseguimento, dai, buon rientro. Grazie, Gio Marì, ci sentiamo. Senti, Gio! Non sei andato al cinema? Ah, fammi lumi! Come te vai, cos'è freddo c'era in campagna? Vento! Vento freddo! Fuggi subito! Giarugrido, maestrale, Giarugrido. Già lo sai che qua tira il maestrale. Poi non sta lasciando niente, tutto ti dà di volta, tutto. Ma che impedi di farsi camminare? No, stasera non si poteva stare, troppo vento. Lasciami dire un bel chi vi in gira. chi ci avvunta e docca, no? Si è incanalato proprio, bello bello. Oh, certo, bebè. Andiamo bene, andiamo. Quest'anno è proprio il mese di maggio, è proprio iniziato bene. E basta l'inverno, allora apriamo come dire, inverno, siamo in autunno. Andiamo bene, andiamo. Oioioi, e chi mi fanno tira, tira, vai, tira. Si fa sentire. Ma hai visto? Facendo fiumi che strarifano, neve, grandine, demoni, fate poco di cose, di danno. E come ti è passato dai noghi? E fenni chi piava? E a giro, Boh, che tabarimmo proprio durato in inverno invece che... tutta cosa delle... tra la Cina e l'America, chissà cosa, un tempo strano. Io non... anni che non vedevo una cosa, una primavera così balorda. Anni. Vedi a bestino minore che hanno fatto un tempo feo. Anch'io me lo ricordo, ma non era mai così che arrivi a maggio o aprile, non erano mai le cose così. Ma adesso, metti gli indicuti, Gesù Cristo ha fatto per il freddo, neve, eva, vento, troppo, basta, adesso ne parliamo. Al prossimo inverno, invece lo vedo è cominciato da là. Mi vedrai, signor Gallio, che fazzi? Quando comincia a far caldo, lo vedo Gallio, che fazzi? Infatti, dopo fa il caldo, non si può sa. Tempi brutti per i vampiri. Ma... boh, è proprio una cosa brutta. Che le correnti quando passano proprio in coso e si trova tra il caldo e il freddo. Correnti fredde si acciappa giù. E ma lì in via oggi non ho steso nulla. L'ho sentito ieri, oggi nulla da va. Lei è andato a giocare con un nipote. A giocare a qualche partitella c'aveva. E se non è in ascolto, facendo le orecchie d'elefante? Sicuramente. O è fende cosa? Non facciamo. È Graziano, Drumito è. Graziano. Graziano deve essere andato in campagna, deve essere andato. Non lo saccio. Il covento, a tagliare il covento si vuole. Si può sapere, lei va dallo spugliatore. No, non lo so, o è fennegosa, Impegnato, se no è entrato che lo stiamo. Oppure è andato a fare pesa, hai quindi di là, se no si mucaleggiano. E cosa ne so, non so. Dove veglio, non ve nessuno. Marino, lo signor Sciara, cosa, il signor Figaro, che fine ha fatto, non si più. Eravamo in 27 poco fa, eravamo, Io, subito totale. Eravamo poco fa in 27, perché era venuta gente, c'è una portante, ogni addanto. La portante poi era la mia, che stavo provando se si sta caricando. Si sta scaldando, nulla ancora. Ah, quello là c'hai acceso. Mi ha acceso con la vedrò, la metterlo in funzione un po'. L'hai messo, mettere la pentola sotto. Ci vorrebbe una pentolina, ce l'ho la pentolina, la 600 litri, capito? Non è una pentolina, un pagiolo. Andava un piccolo coso, un fuocherello, piano piano già si scalda. No, la cosa, la pentolina piccola la volta mio genere, la volta di sera. E se devo provare, prova, fai se ti piace, ma se non mi inizia a mettere i piedi. Se fa bel tempo io domani mi devo mettere a posto dietro nel cofano. Se avessi saccato Ruviru d'ora, adesso che se l'ha tirato, adesso domani ho smonto tutto. Che filo ti è staccato? Delle luci? Oh, dietro nel cofano, adesso non mi apre neanche il cofano. Infatti devo entrarci il cacciavite e aprirlo. E adesso devo controllarlo tutto, perché neanche il tricicristallo funziona. Allora, qualche filo staccato. O il fusibile. No, deve essere che come... O è la cosa che gli ho messo, quella specie di coso, di mastice. Come si è seccato, deve essere che ha tirato il filo e si è staccato, sicuramente, tutti e due. Ah, invece metto il mastice, non ce ne mettere. Ci metti un po' di silicone che è più gommoso, il mastice si secca e ne tira. Sì, no, ma domani prendo e guardo dove posso metterlo da arco, faccio metà o a sentiero il filo e lo lascio elastico, a modo che così non gliene metto mastice, lo lascio libero, glielo lascio, è il coso, e lo stringo con il coso, gli metto. Ho i nastri, li metti con i vari dotti per innestare il filo uno all'altro, non le hai? Sì, una cosa, ecco, lo prendo e gliene cambio un bel pezzo, ne cambio di filo, guardo a vedere da dove arriva, infatti mi devo scendere il tester anche e guardare, e se riesce a ciamballo tutto o rubezzo, o se no gli faccio un pezzo grande, in modo che non sia lì la giuntura. Ci metti due mammutto, ci metti, lo allunghi. E lo allunghi il filo, così non entra in trazione, rimane il gioco che ti gioca. Sì, infatti stavo cercando anche di quel nastro telato, stavo cercando, e non ce n'era l'abrico me. Hai provato l'abrico di via Bugino? In via Bugino? Ah no, lì no, l'avevo chiesto già un'altra volta e non ne aveva. E allora, quel nastro lo puoi trovare da quello ragazzo, non ha preso niente, dietro il forno del pane di Cesaraccio. E infatti vado lì se ce l'hanno, perché di quel nastro che si usa per i cavi, si usa. Guardo se ce l'ha, infatti vado lì, vado per prima cosa. Ma tu vuoi quel cavo, vedere cosa, va. Il rotolo di nastro... Non è che serve autosoldante, no? Infatti guardo se c'è lì, se no vado al coso e dove vendono pezzi di ricambio e loro ce l'hanno. No, vai da Comino, ce l'ho, la Fusaro. Devono avere uno dei due. La Fusaro non ne vende di quel coso lì. Quello telato non lo vende. Più che altro dovrei trovare dove vendono pezzi di ricambio. Pezzi di ricambio c'è anche in via Napoli, in via Punistella, la casa del risparmio. Sì, piano piano già. Me ne faccio, tanto cambio un cavo alla volta, cambio. E taglio un bello spezzo, voglio lo cambio del tutto. Voglio cambiare un bello spezzone che non capiti lì la giuntura. Io avevo un'altra macchina. Dove chiudeva il cofano, nella chiusura del cofano, ci erano spezzati i fili. Tutti quanti ci erano spezzati, quelli delle cose, delle frecce, dei stop, tutto. Lasciavano tutti lì. Cosa ero fatto? Ho preso il capo di quello grosso che si usano per fare più lunghe e roba varia. Le ho fatte a spezzoni da un metro, gli ho messo doppi e... Perché se me ne ha sbagliato... Cioè ci va, il cavo bianco ci va. E sono fini, sono. Hai capito? E di quello lì, ne ho preso una matassa, mi ha toccato bigliammini. Va bene quel cavo lì. Ma si usa sempre, sono noi lampaggio, no? Lo so. Che mi servi sempre. Purtroppo, io mi ruddengo. Adopero quello che devo adoperare e poi lo metto da parte. Serve sempre il filo, non è cosa così, il filo serve. Qualsiasi cosa serve un pezzo di filo, c'è sempre. E se no guaio. Vediamo a fare l'appello se c'è Marino in ascolto. Marino! Sì, piano piano. Devo smontarne i pannelli che ci sono attaccati di dietro e guardare i fili, quelli che vanno prima alla chiusura e poi al motorino del TG Cristalli, e guardare a vedere chi sono. Come sono saltati o oscurati? Devi controllare prima di tagliare. Sì, piano piano gli ha fatto tutto voto. L'altra volta ha giocato tutto in pressa, ma passarlo in pressa. Ha giocato una gaggata. Gli ho messo tutte le aggiunture, gliele ho messe tutte lì e magari anche lì si è bloccato. Ma ti vedo il banchetto e si può sentire il goffalo. Piano piano lo fai. No, già è tutto fuori. Che cos'è che devo... Devo guardare dove passano i fili che entrano dentro il cofano, entrano, però non c'è posto a farli e quindi devo smontare da davanti, li devo smontare. Ma i fili passano sulla destra e sulla sinistra della carrozzeria, dentro, sotto il tappetino. Le mie così passavano a fianco e le trovavo facilmente. Solo a toglierlo è un casotto, a pulire su due. Ehi, compreso Bacchi, piano piano, da posto tutto. E poi ce la dovrò portare per farmi aggiustare la ventola. Ancora senza ventola, sì. E io via. Ma la cosa puoi fare? E ne compri uno dai cinesi di ventola con la batteria e l'attacchi sopra il tuo scotto. Aspetta un attimo, Bacchi. Via. Signor Bacchi, eccomi qua. Aspetta, già sì, un po' sul goso. Sono Giorgio Maria. Cos'è Bacchi? Giorgio Maria 27. Non lo sento io qua, se ce l'ho acceso. Lo fa lui. Passa in 27 se vuoi passare. Siamo qua, accenderà Graziano. Oh, se non entra da qua Graziano non entra più. Ma non che non entra Marino? Mi compri? Ehi, mi sento che sono stazionali, strano ci sono stazionali. Mi senti che sia Tony. Se non è il vento che te causa? Il fondo scala addirittura. Sai, vieni giù. 1 e 3, 1 e 4. Noi siamo oltre i 3. Tre siamo. Certo, 3 è un bel. Ma 1 e 3 o 3? No, 3 e 3, fumo fa, se parli. Aspetta, fumo. Incandescente. È tutto sul rosso. La freccetta si va tutta sul rosso, vuol dire che sono stazionari, infatti vedo anche l'ago, invece andare avanti torno indietro. E allora devi controllare che non sia qualche barilotto invece. Ah, ma che non sia qualche barilotto, che non sia piazzato male. Anche qualche barilotto, adesso comunque a quel giù c'è un po'. Adesso non va. Di fare l'operazione Fabi. Certo che devi controllare. È perché è troppo. È troppo la questione. E quando è troppo bisogna così, bisogna far controllare. Che non ci sia qualche barilotto che sia. Che non ci sia la calza messa male. No, ho trovato un barilotto lì, un pezzo di filo, l'ho collegato quello lì, solo è quello lì. Solo è quello. Poi stacco tutto e controllo. Spezzone per spezzone, troverò dove la magagna. Piano piano, controllo, è tutto. Più poco che scende a due. Che gioia? Più poco che scende a due, da lì non si muove. No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che è caputo. Sicuramente è il cavo o il barilotto. Che l'antenna non può essere. Forse anche l'antenna, adesso c'è l'antenna. Non c'è mai detto se c'è l'antenna. Oh, se ne ha mangiato la giubilza, è vera. Ma vanno lo gioco. C'è per pure la c'è già mai detto là. Si vede che c'è quello di ali. E quindi deve essere dal barilotto, deve essere, controlla. Sì, su in alto sì. Da fuori, mi. Al vento. Chiamando salva. Viterbo sta chiamando, to. Ma dove? Sul 23? Via, sul 23. Oh, niente, non ha nessuno. Adesso no. Poco fa quando sto parlando io. L'ho sentito adesso? Ehi, ancora mi sta salendo, Santiago 8. Sì, va forte, Santiago 9 sta arrivando. Santiago 8, 9, 8, 9. 9, 9 sta arrivando. Da Viterbo. Propagazione c'è. Sì, da quando l'ho acceso c'è la propagazione. Ce n'era un altro che stava parlando dalla Romania. Sì, c'è solo, la propagazione c'è per te. Il vento ha portato tutto via. E infatti con il vento a voglia si arrivano. Cat. Beh, c'era questo stasera dalla Romania con Gio Maria eravamo. Qua dalla Romania veniamo a parlare. Così si è giocato buono. C'è propagazione. Marino dovrebbe sentire ancora migliore di qua perché è pulito lì giù. Sì, che hanno propagazioni, così fossi. Già a sentirli. Dove se ne è a voglia. Quello di Viterbo è amplificato al massimo. Aspetta Bacchi che sta chiamando Gio Maria. Sì. Bacchi Gio. Sì. C'è Gio Maria nella 27. Oh. Solo. Deve essere. Aspetta che le dico di venire qua. Sì. Ehi Bacchi. Sta passando qua. Ho sentito. Io andiamo dove andiamo, bubu. Aspetto. Oh, Mari. Uscendo sto. È troppo forte, buru. Ah, pensavo che non mi sentivo, perché ho visto che era tutto zitto, ho detto, ma non c'è più nessuno, cazzo. Buonasera comunque, buonasera anche signor Bacchisio. Buonasera, Figaro, buonasera, ben ascoltato, ben arrivato. Non dice anche che propagazione c'è stasera, a Calasci, avanti Gio Maria. Io me la pensendi il 23 in FM con Bucarest e la Romania. Cazzo, in Romania, oh. Deve darsi anche italiano, deve darsi. Anche l'italiano lì, in questa scuola. Meglio così. Allora è anche giovano. Cazzo, parlavo bene, sembravano marocchini, invece dopo che hanno sentito a me hanno cominciato a parlare l'italiano. E parlavo anche bene. E vabbè, dai, c'è un po' di propagazione, ma QRM a nastro però, eh. Questo vento sta portando tutto il maestrale. Per carità, cazzo, vabbè, anche su 45 c'è un saccato di gente, camionisti, facendo di ex, collegamento, con lei qua a manetta, e non si comprende un accidente. A chi? No, su 23 in AM c'era Viterbo, sembrava che era stato a casa parlando, Mi pare che lo 23 non siamo abbandonati, ma chi è? bisogna andare anche su 23 qualche volta per la patata, gatta. Se no in quel canale si addormenta, non parla più nessuno. Sì, già si svegliano. Adesso io ho acceso qua, c'è l'attore e mi sono rimasto qua. E stavo ascoltando sia una parte sia l'altra. Ma dobbiamo fare così, un po' qua, un po' là, un po' là, un po' qua. Almeno ci svaghiamo di più, dai, se no ci dormiamo a troppo, vero so? Infatti. Domani mettiamo nella 27 e stiamo. Chefo, che gli ricapia. La saccarra, dov'è la saccarra? Ma l'ho pigliato sul raffreddore, sul baracchino. Per carità, sta fatto pure là, l'ho pigliato sul raffreddore. Dai, dai. No, Marino non si è sentito stasera. Deve essersi impegnato, sennò è assaccerato. Oppure perché ha lavorato anche stasera, sarà stanco e sarà dormito. Babbo, è infatti strano, strano che stasera ho rientrato, che di solito tra... ma non è che sta lavorando fino a tardi oggi, no? No, penso sia uscito, si mette sempre 3:30, 4, prima vuole andare 4:30, ma poi è a casa. Magari sarà stanco e si è messo a dormire, perché si alza alle 3, lavori dalle 3, lavori fino alle 4 di sera, penso che una persona sia stanca. Allora preghisce, dai, dai. Ok, avanti, signor To. Riprenda lì. Sì, già era entrato, se è vero già era entrato. E già si è indaffarato, o ve l'ha studato, o non ve. Sì, ma sì, si è impegnato, sai, a che cosa è impegnato, se non sarebbe entrato, di solito, quando non si è facendo niente, già entra, ma se è impegnato uno, come fa a entrare? Vero, ma chi? Se magari sta facendo qualcosa in casa, si finisce il lavoretto in casa, magari sta tagliando erba, sta tagliando con un po' d'erba, ne aveva ancora un po' da tagliare, stava facendo pulizia. Intanto fa, taglia una parte e cresce all'altra, e deve durare in da farlo. Quest'anno l'erba sta crescendo alla ruota del collo. Ehi, ehi, ma... chissà, può darsi pure ancora presto, ma nemmeno le 8:20, già entrerà a salutarci almeno. Se non è che c'ha molte cose da fare, perché a volte bisogna fare il dovere che è più importante dell'apparecchio. Vero tu? E infatti, è così. Chi doveva essere ancora una vende di piatti, o una vende di pantaloni a chi si è imbruttato dall'erba che da tagliata rimane. E si era a vendere i pantaloni, poi non c'erano pacchi. E mia mamma poi si disegna e si è cagato, dai. E allora si difende il conto. Ma è che cosa di stare male? Io non taglio il debba, innanzi rimane e rimane. Taglio il debba in campagna. E invece no, abba i denti, era figliura della taglia di lemba, capito? Era mogliere con i denti, era abba i denti, finmenti, fa mandarsi da noi. È direttore dei lavori, è dirigente della travaglia, magari si è portato pure la moglie a tagliare lemba. Aspetta, ho già compreso io. E le diceva, no, taglia qua, taglia là così, capito? Il direttore dei lavori. vabbè, lo chiamano un po' fa che si travaglia, che si chiede, te va a mandare solo e basta. Non so chi io. Non si cade così di rossi, è da baita e ogni tanto anda assaggia, però non si tocca Edo. Che si è venuto le mani, capita. Edo sta in poltrona, con la vacchetta e via. Avanti to. Sì, una volta faceva che cosa, ma va, cosa vuoi che faccia? Ormai. Vabbè, magari non può fare niente, è chiaro che non può sforzarsi, capito? sennò se manca l'aria, quindi che devi già fermo e basta, ma intendi, però fammi dare la paventa, intendi, cazzo quanto paventa, è una matracca, Ma non so cosa si vede, ma fammi da questo un bel. Ehi, sono qui a fare un puta, che sta tranquillo che non state a fare dormino. Perché ci vuole abbussato, altrimenti ma chi? Non facciamo uno in macchina e uno a cosa per la galvaccata. E chi vi furia, arma con dinia, il movimento di dinia. E infatti, furia è doga. Ah, già, sei veloce parlando, io furia. E già la muovi la lingua. Purtroppo. E la parlantina, e a buffonendi, Luca, rientrato sì. Ma va a pagare il cosetto, ci arrivendimi. Di sicuro? Sicuro ci ne arrivendi. Aspetta che andiamo va a Luca del Montanaro per cicere. Luca, ci deve essere merendato con quello abbassa in forno, cazzo. Ma te non la posso vedere se abbassa in forno. Dai, da detto che si non dice io Giamaica, si mangia sempre abbassa in forno. Atta, ti arrivati in poco già. E vabbè, l'importante è che gli piaccia uno, o no? Infatti, andiamo per andiamo, bobo. Atta. Io gli ero la mangio brutti. Oh, da molti anni prima già la mangiavo, ma io non la posso avere. Forno, a me mi fai spaghetti, no? Sì, pure a me, come insegnano a rompermi le cazzoli, sta cosa. Infatti, a me, infatti, mi piacciono un bel spaghetti con le vongole. Cazzo, quei pomodorini piccolini, me, che mi sa pulite, con quelli, e metto bene le vongole meglio ancora. Sì, certo. E per i busciani. Una volta te ne metti di vasiami la a Platamona, alla base di Giussu. Scusa, la giuffatti io mi andò via la capina, io bombe, però bisogna andare a ciappare, bisogna lasciarti dalla coppo. Ma cazzo, non prendere tutta la sabbia, cazzo. Troppo ce n'è lì, ma non mai poi anche cari lì, Sono troppo gariso. Io sono andato, le ho prese da cosa, da Carrefour, mi sono costate di manco. Sì, sì, oggi. Oggi c'era la piazza di segne. Però non le ho preso. Certo. Un po' il pungato. Sì. Fresco, fresco scende dal mare. Sì, caro, ha ragione, io sono riuscito a prendere il bagaglio, che sta sentendo un boito. Perché c'era per pagare, già sono sacrificati anche loro, se ne trovavano anche di tutti i tipi, ma va la peste. È così, le vongole bisogna andare a prendere a Sentino, quando le cura nella montagna di Pino, delle regate, chi se sono buoni, sono puliti. Bene, io ho il microfono con le mani, ne approfitto per salutarvi perché passo in quella di causa medicina, se è arrivata l'ora. Oh, l'altra volta sono andato a corso da 15 anni a macchiare in grosso, come cavolo si è fatta. Ho preso quelle tavolette di cose di foretto, poi sono mature quelle. Lo so, quelle fresche hanno un costo, quelle le paghi più poco. Quelle 2 chili mi pare che li paghi 8 euro, così è. Eia, gatta, pulite, gatta, come quelli freschi, gatta, si mangiano, gatta, mangi roba, gatta, un sapore brutto, piatto e mezzo mi hanno mangiato, gatta, che non ti basta, ma per gli spaghetti con le vongole. Vabbè, serva chi, ma si arrendi, sì. Eia, devo andare giù per prendere medicina, è arrivata l'ora, io a quell'ora devo prendere la mia dose. Ok, benissimo, vi ringrazio delle 4 chiacchiere, Tore, buona serata, sotto la signora, domani ci sentite. Anche per Gian Maria, la stessa cosa, ciao Gian Maria, buona serata, buon buonissimo quando lo farai. E saluta la signora, domani se coincide. Ma chi si ascolta Tirolino va in QRT. Bye bye, Tore, prendi. Sì, ok, ci sentiamo domani, Bacchi. Alle prossime, ok, ciao Bacchi. E prendi Gio Maria. Salutiamo il signor Bacchi, saluto. Ciao Bacchi, buonasera, grazie alla piccola chiacchierata. Ah, che sempre mi fa sempre piacere, dai. A domani se coincide, saluto anche alla signora. Ci saluto. Non c'è entrato nessun altro, grazie. Pure ciao Bologna, cosa vuoi fare? Ci sentiamo domani, sto sentiamo momento, buonasera, saluto di casa. Sì, ok, ci sentiamo domani, Gian Mario. Ciao. Ciao.